meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, voglio cominciare subito con una notizia economica. Sentiamo. What we want is to make sure you're not having unnecessary austerity. And you're having fiscal predictability. Beh, credo che questo sia l'ultimo dato economico dell'anno, una revisione del tasso di crescita nel terzo trimestre. Avete sentito Jason Furman, che è il presidente del Council Economic Advisor del presidente Barack Obama, il quale continua a sottolineare che l'economia cresce a passo solido, come ha detto. Ha sottolineato, e questo è il suo virgolettato, che l'economia ha continuato a crescere a un ritmo solido poiché la domanda interna è aumentata in modo robusto, quindi un buon andamento dei consumi. Questo nel periodo tra luglio e settembre. Il PIL è salito del 2% e più dell'1,9% atteso nella revisione. Questa è la prima revisione del terzo trimestre, però è a ribasso rispetto al 2,1 che era stato calcolato come dato intermedio. Comunque, insomma, più o meno ci siamo. L'economia americana al terzo trimestre cresce a un ritmo del 2%, probabilmente sarà lo stesso ritmo di crescita quello del quarto trimestre. Ma veniamo invece alla politica internazionale. We're moving on now. The Iraqi army has launched a long-awaited massive offensive to fully liberate the central city of Ramadi from the Daesh terrorist group. Ecco, abbiamo parlato molto in queste ultime settimane del fronte interno della lotta al terrorismo, delle paure sia in Europa che negli Stati Uniti che si sono diffuse fra i cittadini per il rischio di attacchi improvvisi, casuali da parte di terroristi isolati. Però, ecco, non dimentichiamo che la battaglia continua al fronte. In particolare, lo sviluppo più interessante delle ultime ore è che le truppe irachene stanno per riprendere Ramadi. Ecco, sono delle truppe irachene formate soprattutto da truppe sunnite. Ramadi è una importante città a 60 miglia da Baghdad, pensate, quindi vicinissima a Baghdad, che era caduta il maggio scorso nelle mani dell'ISIS. Ci fu una battaglia durissima. Ecco, a questo punto sembra che la caduta di questa città sia questione di ore. Anzi, magari adesso mentre vi parlo potrebbe anche essere una conquista importante che si aggiunge alle altre conquiste da parte di truppe, diciamo così, alleate, per esempio Sinjar, che era stata presa da un gruppo misto formato da curdi. Se lo ricordate, quando vi feci dei reportage dalla Turchia durante il G20, vi dissi che c'erano delle idee, delle strategie da parte degli Stati Uniti di procedere con un'offensiva per spossessare l'ISIS del territorio che aveva conquistato. Uno degli obiettivi che resta sotto attacco, ma dove ancora non c'è una battaglia diretta, è Raqqa. Ecco, vi avevo raccontato di come c'era questa idea di creare delle forze sunnite anche per prendere Raqqa. Quindi l'offensiva procede e le parole di Barack Obama, che diceva è solo questione di tempo, ma riusciremo a vincere contro l'ISIS o comunque a spossessare, a togliere all'ISIS il suo territorio, beh, è una promessa che ha molta più concretezza adesso. Non dimentichiamo che ci sono stati pesanti bombardamenti americani in aiuto delle truppe di terra irachene che stanno facendo letteralmente una battaglia casa per casa. Ecco, sempre sul fronte esterno, torniamo sulla notizia che vi ho dato ieri, i 6 soldati americani uccisi in Afghanistan. Perché? Perché la tristezza intanto della morte di questi 6 giovani soldati subito prima del Natale. Pensate alle famiglie di questi 6 poveri soldati che Natale passeranno. Però fra le 6 vittime c'è anche una storia molto molto particolare, triste da una parte, molto interessante dall'altra, che ha mobilitato alcuni gruppi di pressione americani. Perché è morta una donna, Adriana Vordenbrunken, il maggiore Adriana Vordenbrunken, che era apertamente gay. Era sposata, la moglie si chiama Heather, e avevano anche un figlio che si chiama Jacob. Ecco, questa notizia naturalmente ha mobilitato attivisti del movimento gay, e poi vedremo come questa mobilitazione si è sviluppata, ma ha mobilitato un po' tutti. Per esempio la Military Partners and Family Coalition, che è un'associazione delle famiglie dei militari, ha rilasciato un comunicato in cui dice: troviamo conforto nel sapere che la moglie Heather e il figlio Jacob non sono più nell'ombra e avranno i diritti che spettano alle famiglie di militari americani. Ecco, direi che questo è uno sviluppo non secondario in quella che è la battaglia dei diritti civili in America, dei diritti per i gay, è un fronte su cui noi in Italia, in Europa, ma in Italia devo dire, siamo sicuramente molto più indietro. Von der Bruggen si era sposata poco dopo l'abolizione del Don't Ask, Don't Tell. C'era questa specie di farsa nell'esercito americano in cui i gay, sia uomini che donne, non avevano bisogno di dire che erano gay e nessuno glielo chiedeva. Questa abolizione avvenne 5 anni fa con Barack Obama. Ecco, dunque, queste due donne si sono sposate formalmente ed è giusto che se c'è una coppia, beh, nella coppia ci sono due persone e se una delle due muore, l'altra che resta, soprattutto con un figlio, è sacrosanto che abbia tutti i diritti di una normale coppia sposata. Insomma, questo in America ormai è un fatto acquisito. Dunque, partendo da questo dibattito, proprio ieri ci sono state una serie di altre notizie che secondo me, dico questo anche perché siamo in uno spirito natalizio, siamo in uno spirito in cui dobbiamo allargare il nostro abbraccio, io credo, a tutti, anche alle minoranze, anche nei confronti di coloro che si sentono in qualche modo discriminati. Quindi ci sono state una serie di notizie proprio in relazione al movimento gay. Sentiamone un'altra. The Food and Drug Administration lifted its ban on gay and bisexual men donating blood today. Ecco, allora, questa notizia è interessante anche se controversa, perché l'avete sentito dal newscast che vi ho fatto ascoltare. Dopo 30 anni cade il divieto per un gay di donare il sangue. Pensate, c'era il divieto per i gay alla donazione di sangue, per tutta una serie di ragioni. Naturalmente una delle principali era che c'era il rischio che magari avessero contratto l'AIDS e dunque c'era preoccupazione proprio per quello. Però c'è un cavillo e questo ha creato polemica, e cioè che i gay possono donare sangue solo se danno l'assicurazione di non aver avuto rapporti sessuali con un altro gay per un anno. Quindi bisogna che ci sia una garanzia di astinenza sessuale di almeno un anno, e questa è di nuovo una discriminazione, perché lo stesso non c'è per le coppie eterosessuali. Naturalmente ci sono state proteste, come dicevo, da parte della comunità gay, che ha definito discriminatoria questa decisione. Sentiamo Jared Polls, che è un deputato democratico ed è il co-presidente della Congressional LGBT, cioè l'associazione dei lesbian and gay, formato da deputati apertamente gay del Congresso. Sentiamolo. Mr. Speaker, this resolution is seemingly innocuous for who in this body would be against. Una norma di questo genere è ridicola ed è in contrasto con l'interesse della salute pubblica, ha detto appunto Jared Polls. Perché? Perché consente a un eterosessuale che magari ha avuto rapporti con centinaia di partner in un anno di donare del sangue, mentre invece un omosessuale sposato in una relazione monogama da magari 5 anni non può donare il sangue. Questa è una forma discriminatoria ed è una decisione che non può essere giustificata alla luce dell'attuale ricerca scientifica della tecnologia di screening del sangue, che ci consente immediatamente di capire se ci sono dei problemi. Ecco, la FDA, cioè la Federal Drugs Administration, proibì le donazioni di sangue da qualunque uomo che aveva avuto dei rapporti sessuali a partire dal 1977. Questo divieto è rimasto in vigore soprattutto, come vi dicevo, per timori che ci fossero rischi di diffusione dell'AIDS. Ecco, sentiamo invece a New York il progressista Bill de Blasio, il sindaco Bill de Blasio, che annuncia una misura a favore dei transessuali, cioè annuncia una legge antidiscriminazione contro i transessuali, confermando e dimostrando che, insomma, la grande città, che la grande mela, che è sempre all'avanguardia, resta appunto all'avanguardia per ciò che riguarda i diritti civili e dei gay. Well, good morning everyone. All right, everyone's awake. That's a good start. Ecco, la decisione ha delle connotazioni molto pratiche. Per esempio l'uso del bagno in luoghi pubblici o degli spogliatoi nelle palestre, per cui gestori o proprietari di circoli sportivi non potranno più impedire che una donna transessuale usi il bagno delle donne oppure gli spogliatoi delle donne. Ecco, un'altra regola che viene cambiata riguarda invece i ristoranti, dove c'è un dress code per cui gli uomini devono indossare le cravatte, le donne la gonna. A questo punto si chiuderà un occhio sul dress code, cioè se una transessuale donna che sembra un uomo non vuole indossare la cravatta, non la deve indossare, e così via, così via. Ecco, dunque chiudo con la dichiarazione di De Blasio che abbiamo sentito poco sopra. De Blasio dice che queste nuove leggi, queste nuove linee guida assicurano e garantiscono che a New York ogni transessuale o qualunque persona che non si identifichi completamente nel sesso maschile o femminile possa avere il rispetto e la tutela della sua dignità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, siamo sempre più vicini al Natale, di Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.